siamo nel pieno della progettazione della cosiddetta fase 2. Dopo la clausura imposta dall'emergenza epidemiologica, il lento ritorno alla normalità. Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato un calendario di riaperture e delle ipotesi di gestione di questa transizione, ma pare ancora di non vedere una strategia piena che in più osservatori constatano mancare. Per esempio, una economista come Marianna Mazzuccato, peraltro inserita nel gruppo di consulenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha voluto istituire, una delle tante task force o commissioni che sono fiorite in questo periodo, fin troppe e i cui legami con gli organi formali, il governo e il Parlamento non sono troppo chiari. Ma tuttavia Marianna Mazzuccato, ottima studiosa, pone esattamente anche lei questo problema che abbiamo già posto nel corso delle ultime riflessioni. Manca una visione strategica. Si parla di soluzioni, di proposte, di scelte di breve momento. Occorre, di fronte a una crisi grave come questa, una visione strategica di lungo periodo che preveda un rafforzamento dei servizi essenziali e un maggiore ruolo dello Stato, attraverso le sue espressioni democratiche, nella gestione dell'economia. Mazzuccato parla di ruolo imprenditoriale dello Stato e ci mostra come i paesi nei quali, pur di capitalismo di mercato, non è questo in discussione, non parliamo di economie di Stato, ma di economie libere, di paesi liberali, però laddove lo Stato è stato capace di avere un ruolo fondamentale nell'economia, si è superata meglio anche l'emergenza coronavirus. I casi esemplari sono uno a est la Corea, l'altro in Europa la Germania. La differenza tra Germania e Italia nella nostra comune Europa nella gestione di questa grave crisi è evidentissima. Le differenze sono enormi. La Germania ha continuato a produrre e ha imposto meno chiusure ai propri cittadini. È stata soprattutto più capace di gestire l'emergenza attraverso una capillarità e un'efficienza dei propri servizi cosiddetti essenziali che l'Italia non ha dimostrato. Un secondo episodio è accaduto in questi giorni che getta luce, una luce da valutare sulla fase 2, il licenziamento del direttore della Repubblica. La ex Fiat, John Elkann, con un'operazione finanziaria disinvolta, per non dire spregiudicata, ha costituito una holding rapidamente, con sede in Olanda, si prende tutto il pacchetto di CIR e controlla GEDI, il gruppo editoriale della Repubblica, l'Espresso, 13 testate locali, eccetera. Appena compiuta l'operazione finanziaria viene licenziato il direttore Verdelli della Repubblica. Tra l'altro viene licenziato proprio quel giorno, 23 aprile, in cui avrebbe dovuto morire, secondo le minacce che arrivano continuamente da gruppi neofascisti, motivo per il quale è sotto scorta. Liquidato dopo un anno di direzione della Repubblica, Verdelli è sostituito con Molinari, già direttore della Stampa, uomo filoatlantico, liberista. Appare evidente una svolta. Alla Stampa viene spostato Giannini. Ora la Stampa è un giornale importante ma molto caratterizzato localmente, è un giornale nazionale ma concentrato soprattutto sul nord-ovest e su Torino. Che sia una foglia di fico il trasferimento di Giannini là, certo è che il controllo della Repubblica getta una luce su quale potrebbe essere la gestione della fase 2 e sembra che si accoppi bene con la vicenda della settimana precedente, l'elezione del nuovo presidente di Confindustria Bonomi, che è entrato subito a gamba tesa nel dibattito politico ed economico in questi giorni. Probabilmente esiste, si sta disegnando una ipotesi di uscita dalla crisi fortemente caratterizzata dalla grande imprenditoria. Su questo abbiamo qualcosa da dire? Su questo ha qualcosa da dire il governo? Su questo esiste la possibilità di intervenire? Perché naturalmente l'impresa dovrà uscire più forte e più capace di agire da questa crisi, ma in parallelo si pone la grande questione sociale, che si può porre in termini propriamente veramente di giustizia sociale, come è stata posta nel corso dell'ultimo secolo e mezzo. I diritti sociali, scriveva Stefano Rodotà, ora scomparso, devono essere esigibili. Non bisogna continuamente dire se è possibile, se c'è denaro pubblico, se c'è la spesa pubblica. Una società non fondata sullo Stato sociale non è realmente democratica, come dice un altro grande giurista, Luigi Ferraioli. E dunque occorre, accanto e insieme e di concerto al rilancio dell'impresa, anche un piano di investimenti pubblici che riguardi non solo la sanità, ma anche il sociale, l'istruzione. La scuola ha subito un colpo durissimo in questo periodo. Il 25 aprile lo abbiamo trascorso in casa. Per certi aspetti non è stato negativo, perché la grandissima quantità di proposte sui diversi media, in internet, non ci hanno lasciato soli e hanno consentito di aprire molte riflessioni, forse anche più approfondite di quelle che si possono fare ad essere in una piazza. Ma è mancato un elemento essenziale: la relazione tra le persone. Una relazione che deve essere l'asse portante dell'uscita da questa grave crisi.